Do il benvenuto ad Antonio Rossetti, in arte Oldenaccio, fumettista e illustratore tarantino, che è in collegamento con noi per parlarci del suo libro Elliot Smith Going Nowhere, che presenterà questo giovedì 10 novembre alla libreria Modo InfoShop. Ciao Antonio, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, grazie per l'invito. Antonio, inizierei questa intervista chiedendoti di presentarci Elliot Smith Going Nowhere, il libro che hai pubblicato con Bao Publishing e che presenterai questo giovedì da Modo. Allora, se dovessi parlare di Elliot usando pochissime parole, partirei soltanto dai suoi due tatuaggi, perché Elliot aveva la sagoma del Texas tatuata sul bicipite destro per ricordare da cosa stesse fuggendo e non il suo posto di appartenenza. Invece sul braccio sinistro aveva la sagoma del Toro Ferdinando, il libro illustrato degli anni 30 di Murrow Leaf, dove il protagonista, un torello, per, a differenza degli altri compagni che passavano le giornate a scornarsi a vicenda per dimostrare chi tra loro fosse il più forte, Ferdinando invece aveva passato le sue giornate annusando i fiori e inseguendo le farfalle. E tra questi due personaggi, tra Elliot e Ferdinando, ci ho da subito visto un'affinità gigantesca, tanto da utilizzare poi Ferdinando come amico immaginario e leitmotiv che segue il percorso di Elliot, questo cantautore americano scomparso forse troppo presto, perché morto non si sa se suicida o omicida a 33 anni, ma è stato sinceramente e indubbiamente anche uno dei più grandi cantautori della scena musicale degli anni, della fine anni 90 e primi 2000. Perché proprio la scelta di Elliot Smith? Qual è il tuo legame con questo artista? Io, come tutti quanti i ragazzini e le ragazzine definite un po' outsider, al liceo ascoltavo soltanto musica che provenisse da persone che vestissero soltanto di nero e che urlassero fortissimo le loro emozioni, fino a quando poi un giorno, sempre per quegli amichetti, quelle amichette che passavano le copie masterizzate dei CD, mi capitò tra le mani una copia di I Terror di Elliot insieme a quella di Spiderland e Flint. Da allora riuscii a capire, ascoltando I Terror di Elliot, che si poteva fare musica anche non seguendo quegli unici canali che conoscevo io, cioè urlando fortissimo le proprie emozioni e la propria rabbia, ma esistevano migliaia di canali e modi possibili nella narrazione. Da allora ho scoperto Elliot, ma la scoperta si limitava soltanto a quell'album, per poi scoprirlo nuovamente quando stavo lavorando le ultime pagine del mio primo libro con Bao Umberto, ascoltando ossessivamente I Terror per mesi, mesi e mesi, ed è arrivato poi alla scoperta che avrà fatto altre canzoni questo ragazzo, questo tizio, e quindi scoprendo poi, andandomi a informare su Elliot, la prima cosa che noto è morto. Come lo conosco questo cristiano, è già morto, e da lì poi è partita tutta quanta questa grandissima necessità e voglia di poter parlare di lui, ma non parlare di lui come le mille biografie che si trovano in giro, che sono più agiografie che biografie, ma la necessità di voler parlare di lui come persona, come essere umano, ed è quello che ho fatto in questo libro. Qual è il punto di vista che hai utilizzato per raccontarci questa figura e quale sarà il lato di Elliot Smith che potremo poi ritrovare nel tuo libro? Il punto di vista che ho utilizzato è proprio quella della semi-biografia, ma non della biografia in sé, quindi allontanandomi definitivamente dalla geografia, cioè vita, morte e miracoli della persona in questione, ho preferito andare a parlare di Elliot come persona, chi era lui dal punto di vista umano, e per fare questo sono andato ad intervistare i suoi vecchi amici, vecchie amiche della sua vita, tra cui i vecchi componenti dell'Hitmiser, la prima band di Elliot. Loro mi hanno saputo dare, mi hanno dato informazioni preziosissime che mi hanno portato poi a costruire e scrivere questa sorta di semi-biografia, anche se io ci riesco a vedere anche una sorta di romanzo di formazione in questo, perché tutto quello di cui si parla all'interno del libro sono andato proprio a ricreare un tessuto sociale, un contesto culturale, tutto quanto quel periodo dell'America negli anni 90, nella Portland Punk degli anni 90, quindi questo è il punto di vista nella storia. Ultima domanda per concludere un po' questa intervista, ti chiedo se hai voglia di scegliere una canzone di Elliot Smith per salutarci e se ha qualche significato in particolare per te. La canzone che sceglierei è sicuramente Say Yes, perché io la reputo la canzone non d'amore più bella che esista al mondo, ed è secondo me uno dei pezzi fondamentali di Elliot, che da quello che mi piace immaginare dal mio punto di vista è una sorta di dedica assurda alla sua ex compagna storica Joanna Bonn, che se non fosse stato nemmeno per lei non avremmo mai potuto ascoltare la musica di Elliot. Perfetto. E conoscere la musica di Elliot. Perfetto Antonio, grazie mille, chiaramente invito anche tutte e tutti ad esserci questo giovedì 10 novembre alla libreria Modo Info Shop a partire dalle ore 17:30 per la tua presentazione. Tra l'altro ricordo anche che dialogherai con Antonia Caruso, che è un'attivista transfemminista, editorialista ed editrice di Edizioni Minoritarie, che conosciamo anche molto bene a Radio Città Fujiko perché è parte anche della nostra redazione, quindi rimando a tutti a questo giovedì. Sì, e vorrei anche ricordare che ci sarà ospite anche Guido Brualdi, cantatore che eseguirà tre pezzi di Elliot Smith, Tre piccole cover, quindi sarà una presentazione un po' atipica, quindi chiacchiere e musica insieme, sarà bello.